Ah, cazzo, c'è poca pila. Matici scettici. Se lo sei segnato, forse... Sì, no, ho segnato un po' di... Ah, troppa roba. Esatto, poi io perché ho segnato un po' di... E poi mi sono concesso. Ma è tuo, magari. Esatto. No, sì. No, è dopo, sicuro che è dopo. Se me lo dai a me, forse lo trovo io. Io voglio solo uno spunto, poi... Creatismo. Allora, quanto lo spiega lui, non dice che non ci può essere, cioè dice semplicemente che non c'è un criterio, una fondatezza ultima, okay, no? Che non c'è una fondatezza ultima della... E lo scettico dice la stessa cosa. Allora, sì, da come l'ho capita io, una possibile differenza può essere questa. Lo scettico mette in questione, cioè lo scettico dice... lo scettico no, allora partiamo dal relativista radicale, diciamo. Il relativismo più radicale afferma la seguente cosa: non è possibile trovare un fondamento ultimo a qualsiasi affermazione, cioè non esiste una affermazione dotata di fondatezza al di là del dubbio, non c'è nulla di universalmente fondato, no? Quindi non è possibile trovare un fondamento? Non è possibile trovare una asserzione che sia dotata di un fondamento sicuro, quindi non ci sono affermazioni che abbiano un radicamento. Un radicamento indiscutibile, qualcosa su cui nessuno possa discutere. Lo scettico, secondo me, lo scetticismo è una posizione temperata di relativismo, nel senso che non si impegna a dire non esiste nessuna affermazione di questo tipo. Secondo me si potrebbe dire così: lo scettico dice: sinora né io né nessun'altra persona abbiamo trovato una asserzione dotata di fondamento indiscutibile. Facciamo un taglio che magari più avanti qualcuno la possa trovare. E aggiungerà lo scettico: e io trovo che sia estremamente improbabile che mai si troverà. Però non lo esclude. Cioè, è una sottilissima differenza. Ah, è il contrario, invece, infatti. Credo. Sì. Cioè, lo scettico è uno un po' più moderato, lo scettico è uno che mette in dubbio tutto, dice, no, tu dici così, no, guarda, dubito che sia così, e ti fa l'osservazione. Però non si impegnerà mai a fare una asserzione, comunque, l'asserzione che ho fatto prima, che ho detto prima, diciamo del relativista radicale, è comunque un'asserzione un po' azzardata, perché dice non esiste. Non esiste e in conclusione diciamo implicitamente dice non esisterà mai, cioè è impossibile che esista. Questo è diciamo il relativista radicale è già più sicuro del proprio relativismo, cioè del fare la situazione. Lo scettico è uno che si limita a dire sino adesso non mi avete convinto, se volete continuare vi lascio parlare, vediamo se vi convincete, insomma. Cioè non si impegna in una asserzione. E in effetti, mentre all'universalista, al relativista radicale, si potrebbero probabilmente, almeno in parte, opporre le fare le obiezioni che fanno gli assolutisti, che fanno i dogmatici, che sono ricordati nel libro di Bagnes, allo scettico è più difficile fare questa obiezione, perché per esempio si torna e dice, no, ma io non ho mai detto che non ci può essere, ho detto che secondo me non c'è, ho detto che fra tutte le robe dette non ne trovo una, fra tutte le affermazioni di Platone non ce n'è una che sia diciamo dotata di credo che si possa dire così, però in realtà non c'è poi tanto, sì, no, sono sfumature, sì, no. sono comunque sfumature, la linea di demarcazione passa comunque tra chi crede non solo che sia possibile ma che sia addirittura un'altra possibilità, perché lui dice, allora, tra lo scetticismo e il relativismo esiste una considerevole differenza. Considerevole. Il relativista mette in discussione l'esistenza di un criterio non condizionato della verità, mentre lo scettico mette in discussione semplicemente che si possa asserire la verità. Quindi il relativista discute l'esistenza di un criterio non condizionato. Ah, lui dice così. Sì. Va bene, allora si può prendere la mia quello che ho detto io non visto tutti. Io ho la vedo un po' diversamente. Secondo me il relativo, quindi secondo lui è più radicale lo scettico che non il relativista. Sì, no, però dopo dice anche lo scetticismo non nega che alcune delle nostre convinzioni, alcune delle nostre conoscenze, delle nostre affermazioni possano essere vere. Mette in discussione solamente il fatto che si possa dimostrare che lo sia. Quindi c'è comunque un qualcosa in filo conduttore tra lo scettico e il relativista. Allora, però, se poi guardi la parte che dice dopo, quando lui dice tutti noi nella vita quotidiana facciamo costantemente uso del concetto di verità, facciamo bene, giusto? Quindi il relativista non dice che la verità non esiste, dice che non ha fondamento. È ovvio che tutti noi ci comportiamo. Forse valeva la pena, cioè, volevo commentare qualcosa che forse ho già detto, ma forse non l'ho mai detto in modo più esplicito. Una delle ragioni per le quali sono arrivato a una posizione coscientemente relativista, studiando le teorie del linguaggio, quindi studiando il linguaggio. E la ragione che mi convince di più a me è che il relativismo è più in consonanza con l'effettiva consistenza del linguaggio, cioè con il modo in cui il linguaggio funziona, con il dispositivo linguistico. Le origini del linguaggio sono sicuramente, la concezione descrittiva o denotativa del linguaggio, cioè il linguaggio serve per descrivere il mondo, è falsa, è sbagliata sia sul piano concettuale che anche su quello storico. Storicamente non è stato così molto probabilmente. Se il linguaggio è nato, non è nato per descrivere il mondo, nessun animale ha questa, cioè se uno mi dice questa cosa serve per descrivere il mondo, è già un passo successivo, c'è qualcosa dietro che non può essere cosciente, che non può avere una, ma che è non di meno la caratteristica che contraddistingue gli esseri umani. E è quella che ho detto prima. È l'esistenza di dispositivi di rappresentazione, cioè o l'esistenza di una predisposizione verso la rappresentazione. Rappresentare vuol dire costruire un doppio della realtà. E si può fare in vari modi. Si può fare anche con le immagini, certo, non solo con le parole. Però le immagini sono meno duttili dal suo punto di vista, sembrano più libere, in realtà non sono più libere, è il linguaggio che è più libero delle parole, perché nell'immagine c'è una analogia di forma con il rappresentato, fra rappresentante e rappresentato, c'è una analogia, sono entrambe cose visibili. Sì. Io vedo il Monte Fuji, lo vedo con gli occhi, ho il Monte Fuji, poi guardo i disegni di Hokusai e dico, oh, c'è più immediato. Oh, esatto, c'è un'immediata corrispondenza tra l'oggetto e la sua rappresentazione. Ma se io ti dico, in Giappone, e io parlo e dico, in Giappone c'è un vulcano che visto di lontano ha i fianchi al pendio molto dolce e digrada lentamente verso la parte più bassa. Che cosa ho fatto? Sto dando una rappresentazione del Monte Fuji, ma non, voi non lo vedete il mio Monte Fuji, lo sentite, no? Lo sentite. Se io prendo una foto di Alice, probabilmente lui non va a fare questa cosa. Se domani, se invece va a dire, sì, guarda, c'è una ragazza a lezione, ma sta un dito, sta un dito molto male, quindi sai, quando fa quelle cose lunghe, tu la vedi Alice, no, la senti, se senti me che parlo, di un'altra persona, no, l'Alice di Caronia, detta così, non è una Alice che si vede, è una Alice che si sente. Che cosa comporta questo? Che la differenza di sostanza percettiva, di ordine della percezione, rende il linguaggio più libero dell'immagine. È più libero. È vero che anche l'immagine ci sono, che ci saranno 50 modi diversi di dipingere il Monte Fuji o di dipingere Alice. Però se io voglio dipingere il Monte Fuji, voglio dipingere Alice, in qualche modo devo conservare una corrispondenza con quell'oggetto senza pensare all'arte astratta, eccetera. Se deve essere un'arte rappresentativa, certo, che deve rappresentare qualche cosa, la uguaglianza, la similarità del registro percettivo impone alla rappresentazione iconica dei vincoli maggiori di quanto non li imponga alla rappresentazione linguistica. La linguistica è più libera, perché non deve ricostruire qualcosa che allo sguardo appaia come quell'oggetto, il Monte Fuji o il viso di Alice. Una descrizione verbale è più diciamo libera. Ora, il paradosso che voglio mettere in rilievo oggi prima di chiudere, e poi chiudiamo davvero per fare il corso, è questo. Questo i Bagnes non lo dice, quindi non studia il linguaggio. È questo. Tanto le posizioni relativiste quanto quelle assolutiste in ultima analisi affondano le loro radici nel linguaggio, cioè nella rappresentazione verbale, ma lo fanno in modo diverso, però tutto sommato questo può essere considerato un paradosso. Perché io dico che il relativismo è la posizione più consona, che si accorda meglio con il linguaggio. Perché il dubbio sulla dimostrabilità assoluta di qualche asserzione riposa esattamente sul carattere ambiguo del linguaggio, sul carattere ambiguo della rappresentazione. Una rappresentazione, anche quelle iconiche, ma ancora di più quelle verbali, le rappresentazioni non sono l'oggetto rappresentato. C'è uno scarto, c'è una differenza tra l'oggetto che io voglio rappresentare o il concetto che voglio esprimere e le parole che uso per esprimerlo. Inoltre, la ricchezza del mezzo linguistico, quindi non solo mi assicura che io posso dare diverse descrizioni, anche a volte contraddittorie, differenti tra loro di un medesimo oggetto, perché così l'altra parte è l'esperienza. Se vi ricordate il film, il famoso film giapponese di Kurosawa, Rashomon, che racconta una storia, una stessa storia, vista da cinque personaggi diversi. E sono cinque storie diverse, eppure è sempre la stessa, ma l'esperienza umana è fatta così, L'incidente che abbiamo visto sotto, nella tavola di giornale che ricordo, raccontato dalle 20 persone che l'hanno visto, sono 20 incidenti diversi, non ci sono visti, perché da un lato l'esperienza è ricca di per sé, e quindi ognuno di noi già nel momento in cui la vede ne sceglie qualcosa, già questo lo vede, l'altro no, è una scelta incosciente, inconscia, ma è così. Poi quando io la racconto, seconda tappa, perché devo scegliere una parola piuttosto che un'altra per raccontarla, quindi è complicatissimo. Quindi ecco, questa è una delle ragioni principali per le quali io mi sento di dire che il punto di vista del relativista o dello scettico è più, si accorda di più con il linguaggio, rende conto, è più aderente a come davvero funziona il linguaggio, perché la rappresentazione verbale, la rappresentazione linguistica è ambigua e quindi esclude che ci possa essere una, cioè come faccio a dire fra le cinque versioni dello stupro nel film giapponese, come faccio a dire qual è quella vera? Sono tutte vere, ognuna ha colto un aspetto della verità, ma siccome l'assolutista pretende, l'assolutista non mi dice le cose sono così e non potrebbero essere diverse, può anche essere giusto, ma mi dice che le mie asserzioni sulle cose, le mie asserzioni, ciò che io dico, un prodotto del linguaggio è confondato, cioè è aderente alla realtà. E allora, se anche fosse, allora, in altri termini, se la verità come caratteristica ontologica può anche essere vera, può anche essere giusta, ci sarà una verità delle cose, ma io non la posso raggiungere, come avete detto Kant, non la posso raggiungere perché il mio strumento linguistico, intanto perché i miei strumenti percettivi sono limitati, e quindi sono limitati e relativi, relativizzati, ogni essere umano, ogni essere umano diverso che fa una stessa esperienza ne coglie aspetti differenti dagli altri e quindi ne riporta e ne descrive con il proprio linguaggio e eventualmente in un secondo tempo ne rende aspetti differenti. Quindi questa è la ragione per la quale secondo me il relativismo è più radicato, è più aderente, si accorda meglio con i dispositivi. Però l'assolutista potrebbe sostenere che anche il suo punto di vista è una conseguenza della rappresentazione linguistica, facendo un ragionamento diverso. Proprio perché il linguaggio è un dispositivo parziale che non può fare altro che descrivere dei fenomeni o certi aspetti particolari dei fenomeni, proprio per questo che bisogna cercare di radicarlo di più nella realtà. La saggezza potrebbe dire: c'è una discrepanza tra la mia convinzione, tra la mia esperienza. Io quando faccio una esperienza, questa esperienza ha un carattere totale per me. È quello che è successo. Non ne posso dubitare. Ho visto quelle due macchine che si scontravano, ho parlato con quella persona, ho visto quel tramonto, ho fatto una qualunque esperienza. Allora, qui devo un po', come dire, mescolare quello che penso io con quello che potrebbe dire, come dire, l'assolutista. Allora, la credenza, la fiducia nella esistenza di una verità dimostrabile in maniera assoluta, insomma, è qualche cosa che l'assolutista introduce per ovviare, per contrastare la parzialità del linguaggio. E quindi io credo questo, credo che il relativista, lo scettico, debbano comunque accettare il fatto che l'assolutismo è una tendenza, diciamo, radicata negli esseri umani e non risponde soltanto a un bisogno di, come dire, non è soltanto banalmente un errore. Se vi faccio l'analogia con Dio, molto probabilmente capirete che cosa intendo dire. Io troverei sbagliato fare un discorso. Io sono ateo e lo proclamo, confesso il mio ateismo e lo dichiaro senza infingimenti, cioè senza, nel modo più franco e più sincero possibile. Però il mio ateismo, cioè il fatto che io non creda nell'esistenza di un essere sovra sensibile o sovra umano che abbia creato il mondo e che sovrintenda le cose del mondo, questo non implica che io debba considerare una perdita di tempo il pensare a un concetto del genere. Non implica che io debba dire che una credenza del genere negli esseri umani è frutto di un semplice malinteso. Perché se fosse così, gli esseri umani si sarebbero liberati da Dio e anche dalla verità, da un bel pezzo. Vuol dire che dietro c'è più di un semplice malinteso. È sbagliato pensare che Dio o la verità, intesa nel senso assolutista, siano dei malintesi. Sono invece, è per questo che vanno studiati seriamente, ed è per questo che mi piace studiare le religioni e che mi piace studiare anche le religioni diverse da quella da cui sono nato e sono cresciuto io, ma anche la mia. Mi piace studiarle perché dietro a quelle religioni si esprimono un sacco di cose interessanti degli esseri umani. E allora vi dirò di più: dietro a ogni affermazione di un assolutista ci sono delle cose interessanti da un punto di vista scettico, da un punto di vista relativistico, sui processi mentali attraverso i quali quella certa persona è arrivata a dire queste cose. È interessante studiare questa esigenza che noi abbiamo di assoluto, di qualcosa di assolutamente fondato. È certo però che tutti gli studi che sono stati fatti sui meccanismi linguistici e addirittura sui linguaggi più specializzati e su quelli che sembravano i più solidi, i più saldi, per esempio la matematica, i teoremi di Gödel, negli anni 30 del secolo scorso, hanno dimostrato che la matematica è una scienza infondata, che non ha fondamento in se stessa, nel senso che non si può, è infondata in che senso? Nel senso che non c'è una coincidenza automatica e dimostrabile tra la sintassi di un sistema matematico e la sua semantica, che ci sono delle asserzioni matematiche indubitabilmente vere che non saranno mai dimostrabili, non che sinora non abbiamo trovato la dimostrazione, ma prima o poi la potremo trovare, no, che sono sicuramente indimostrabili. Questo è il succo dei due teoremi Gödel. Ti dici anche quali di queste espressioni matematiche, certo, e quali sono? È una roba molto complicata. Il teorema di Gödel consiste, il teorema di Gödel non parla di logica, quindi costruisce una asserzione, una affermazione riguardante se stessa, riguardante la frase di Gödel, che è collegata con un numero chiamato numero di Gödel, e questa asserzione, per come è costruita, risulterà vera in qualunque modo possibile, perché lui l'ha costruita in modo che abbia una corrispondenza automatica, ma contemporaneamente per il contenuto di questa frase afferma di essere indimostrabile, dice io sono indimostrabile. Quindi è una frase che lui costruisce, fa vedere che non può che essere vera, ma tuttavia dice non c'è nessuna sequenza di simboli del sistema logico, quindi si gioca un po', perché io dico che no, perché riguarda l'aritmetica ma fino a un certo punto, riguarda il fondamento logico dell'aritmetica, no? Quindi il teorema di Gödel afferma che qualunque sistema logico che sia sufficientemente potente per descrivere al proprio interno la aritmetica, cioè un insieme infinito di numeri, non è mai sintatticamente completo. Cioè, in questo sistema esiste almeno una asserzione, e lui fa vedere qual è, che è vera in tutte le interpretazioni possibili dei mondi possibili, quindi è vera semanticamente, ma non è dimostrabile sintatticamente, cioè non c'è nessuna dimostrazione, nessun insieme di righe scritte con i simboli di quella teoria che può dimostrarlo. Quindi è vera, è semanticamente vera, ma sintatticamente non dimostrabile. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che i sistemi matematici che erano sembrati a lungo i più sicuri, i più stabili, quelli in cui il pensiero era padrone, era, come dire, sovrano, no? C'era la matematica. Che cosa c'è di più sicuro della matematica? Questi sistemi non hanno un fondamento. Certo, i giochi che posso costruire, si va avanti, non è che si è smesso di fare matematica, ma è la fondatezza di quei sistemi che non è dimostrabile stando dentro quei sistemi. Certo, c'è un modo di dimostrare la fondatezza di quei sistemi, sì. Basta costruire una metateoria, cioè una teoria di livello superiore, che abbia il sistema logico della aritmetica come oggetto. Costruire una metateoria all'interno di questa nuova metateoria, tutti i teoremi della vecchia teoria saranno dimostrabili e quindi sarà a posto. È fondata la matematica, ma non è autofondata. Per fondarla bisogna mettersi a un gradino più su, la metateoria. E a questo punto voi capite che siete una merda, perché avete fondato una teoria con una metateoria. Ma che cosa fonderà questa metateoria? Da sola non si può fondare, perché potete ripetere lo stesso ragionamento che ha fatto Gödel per il livello successivo. Ah beh, però si può fondare con un'altra metateoria, bene, e andate avanti all'infinito. Teoria, Sì, la teoria degli insiemi. Sì, la teoria degli insiemi, quella roba, teoria, la teoria aritmetica, teoria degli insiemi, quello che si chiama. Qua ci sono i teoremi di Gödel, mi dicono che questa teoria da sola non può fondare. Allora, per poterla fondare devo costruire una metateoria. Questa metateoria fonda questa teoria, cioè, dico bene, dentro questa metateoria non ho più problemi, qua. Ma nella metateoria? Ma questa metateoria com'è fondata? E devo fare un altro casino. Non ne uscite più, non ne uscite più, una larga infinita. Quindi, non esiste nessuna teoria che sia così. Cioè, se è forte, c'è un punto debole. Se quella teoria lì, se voi non chiedete che possa parlare dell'aritmetica, allora è tutto tranquillo. Se voi fate una logica finita, che abbia solo un numero finito di oggetti, e quindi un numero finito di asserzioni su quegli oggetti, non avete problemi. I teoremi di Gödel non si applicano. Una teoria finitista, che abbia soltanto un numero finito di oggetti, può essere autoconsistente, si può autofondare, ma non serve un cazzo, non serve a niente, perché non parla dell'oggetto matematico più semplice, che è l'insieme dei numeri naturali. L'insieme dei numeri naturali non dico numeri reali, no, dico 1, 2, 3, 4, 5, ma questo insieme ha questa caratteristica, che dopo ogni numero ne puoi dire 1 più grande, quindi è un insieme infinito. Se voi avete a che fare con l'infinito, vi dovete scordare l'autofondazione. Ora, non siamo in un caso del genere con il linguaggio? Uguale. I sistemi linguistici... ad esempio, come per il linguaggio, se tu riconosci il fatto che la sua natura sia illusoria e lo utilizzi per convenienza... Certo. Va bene. Cioè, è ovvio che va bene, ma è ovvio. Ah, no, okay. È ovvio, io sono radicalmente convenzionalista, chiaro, è ovvio che si usa perché serve, si usa perché usa. Bisogna però rinunciare all'idea che sia fondato, che sia autofondato. Quindi il relativista si ricorda queste cose qui? Certo, okay. Questo vuol dire relativismo. Attenzione, mentre in una teoria logica io ho la possibilità di dire va bene, faccio una teoria. Poi costruire, siccome questo è tutto un linguaggio artificiale, sono linguaggi costruiti dall'uomo, simboli, come l'informatica, pensate a un sistema informatico. Se costruite un sistema informatico, potete costruire un metasistema informatico in cui parlate, si fa, no? Con il linguaggio non si può fare. Mi corregga se sbaglio, quindi per parlare relativista dice. Usiamo, nel senso, per fare un paragone con la matematica, noi diciamo queste cose, ma non c'è un fondamento ultimo, no? Certo. E usiamo per convenienza, quindi va bene. Mentre l'assolutista dice, no, invece no, è così, ed è nato perché è indipendente. È indipendente è una espressione di dogma, insomma. Esatto, addirittura. L'assolutista afferma, esistono verità universali, ed esisterebbero anche se nessuno le avesse espresse, se nessuno le avesse scoperte. Lui è un, come dire, platonico sino in fondo, cioè è convinto della esistenza oggettiva di queste cose. Vi devo avvertire che la gran parte dei matematici, anche contemporanei, sono dei platonici. Cioè credono realmente alla esistenza degli oggetti matematici. Non la prenderebbero, come abbiamo detto adesso io e te, un matematico avrebbe difficoltà, uno che fa di professione, che lavora di professione con la matematica, avrebbe difficoltà a accettare una visione convenzionalista della matematica. Secondo lui gli oggetti matematici hanno una esistenza reale, come d'altra parte pensava Platone, no? Perché Platone pensava che tra le forme dell'iperuranio quelle più importanti erano le forme geometriche, erano i solidi fatti con i poligoni regolari, no? I cinque solidi, quindi erano... Ti chiamo fra 5 minuti. che niente, cosa stavo dicendo? Niente, sì. Quindi questo vuol dire, no, dicevo allora, mentre però nel campo della matematica e della logica è possibile, certo, non mi salva per nulla fare questo, vabbè, però faccio una metateoria con la quale fondo la come dire, teoria. Faccio un metalinguaggio con cui mi attrivo sul linguaggio. Nel linguaggio naturale questo non è possibile. Dov'è il metalinguaggio? Su cosa è fondato? Su cosa è fondato? Siccome il nostro linguaggio è un linguaggio naturale, cioè il frutto di una evoluzione storica in ogni gruppo, in ogni umano, in ogni comunità umana si è formato, non è un linguaggio artificiale che ha costruito qualcheduno di noi, no? Quindi non si può costruire un metalinguaggio altrettanto artificiale per parlare di questo linguaggio. La distinzione tra linguaggio e metalinguaggio, che è possibile nei linguaggi formalizzati, anzi è molto utile, non è possibile con il linguaggio naturale. Quindi il linguaggio naturale non può che autofondarsi, se vuole, come dire, fondarsi. E mi spiace, ma il teorema di Gödel è una, come dire, mazzata anche per il linguaggio naturale. Perché se l'operazione non è possibile farla con un linguaggio formalizzato, con un linguaggio artificiale, tipo quello dei computer, come sarà possibile farla con il linguaggio naturale? Che deve avere almeno quella complessità, perché nel linguaggio naturale io posso parlare di numeri naturali, no? Posso dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, n più 1, no? Posso parlare. Quindi vuol dire che tutte le sfighe dei linguaggi logici che parlano dell'aritmetica saranno anche del linguaggio, diciamo, naturale. Quindi l'incompletezza del linguaggio naturale, l'incompletezza sintattica del linguaggio naturale è chiarissima. Ci saranno sempre più cose nel mondo di quante il linguaggio ne possa esprimere. E ci saranno sempre più cose che esprime il linguaggio di quante ne posso trovare nel mondo. Sono in qualche maniera sconnessi, sono fluttuanti. Certo, c'è una parte in cui si coincidono, ma questa parte è variabile, relativa. Non posso mai essere sicuro di qual è la parte sulla quale queste cose, diciamo, coincidono. E allora, la conclusione è che il punto di vista dogmatico o assolutista, invece, è un punto di vista che, al fondo, forse ve l'ho già detto, ma ve lo ripeto, presuppone una aderenza, una corrispondenza, diciamo, completa, senza eccezione, tra il linguaggio e il mondo. Dire che esistono delle affermazioni la cui fondatezza è al di là di ogni dubbio indica che almeno su una cosa c'è una assenzione che descrive il mondo in maniera perfetta, in modo che non possa aggiungere più nulla. Che cosa posso aggiungere alla verità? Se la verità esiste davvero, se c'è una asserzione di cui io posso dire sicuramente è vera, che cosa posso aggiungere a questa asserzione? Nulla. Perché se è vera vuol dire che ha un tale rapporto di completezza, la rappresentazione finalmente si è unita con la realtà. Ed è una trappola. È una trappola perché questo vuol dire negare il potere creativo del linguaggio. Con il linguaggio io posso creare sempre qualcosa di nuovo, posso sempre dire più uno, posso sempre aggiungere qualche cosa, posso sempre migliorare la mia descrizione, posso sempre affinare il mio ragionamento, ed è un processo senza fine. Se la verità ci fosse, il linguaggio non sarebbe creativo, perché io non posso creare nulla se ne ho già raggiunto, ho già raggiunto, diciamo l'illuminazione, il Satori. Quando il buddista arriva al Satori, non parla. Non è qualche cosa che lui possa esprimere con le parole. Se la esprime, quando torna, quando rientra da questa breve esperienza e cerca di raccontarcelo, non ci può raccontare quello che ha visto davvero, quello che ha, il modo in cui in quell'istante l'universo gli si è disegnato nella mente. L'esperienza è indubitabile, non abbiamo motivo di dubitare che lui l'abbia fatta davvero, ma è una esperienza, su questo tutti i testi buddhisti concordano, linguisticamente intraducibile. con il linguaggio non la possiamo tradurre. E quindi insomma io sinceramente tra l'affacciare qualche cosa che rassicura la mia mente e che dice bene, qui sto tranquillo e nessuno potrà muovermi diciamo da qui, da questo come dire paradiso, tra questa posizione e la rinuncia invece al potere creativo del linguaggio, io scelgo il potere creativo del linguaggio. Preferisco sentirmi sempre incompleto, sempre insicuro, sempre alla ricerca di qualche cosa, ma sapere che ho a disposizione uno strumento con il quale posso sempre fare un passo più in là, piuttosto che sapere di avere raggiunto la verità, ma non potere più fare il passo, non potere più fare il passo avanti, insomma. Io più di questo non credo di poterlo dire. Sono troppo autonomi, facciamo fantascienza, basta, non so più.